solo riuscissi a liberarmi da queste invisibili catene, da questa luce né chiara né scura, riuscirei a vedere ciò che c'è al di là di questo muro sociale che si erge tra noi. E se solo potessi in un solo momento prendere in considerazione tutto ciò che non hai fatto nella vita. Uomini accelerati, donne divorate dalla rabbia, il loro destino è rotto lo spazio. Uomini accelerati, donne divorate dalla rabbia, il loro destino è rotto lo spazio. E se forse accadesse che in un solo istante l'urlo congiunto di migliaia di voci divorasse per sempre le tue inutili paure, sarei responsabile di questo cambio climatico condotto da secoli da uomini e donne imperterriti, arroganti, accelerati ma insignificanti.